Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per il consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese con questo ciclo di conversazioni sulla vita dopo la morte, oltre. Oltre è inteso come un punto di vista che l'uomo è chiamato ad assumere oggi in modo particolare su questioni che vengono spesso sottaciute, passate sotto silenzio, ignorate se non censurate, sono le questioni più scomode. Abbiamo detto tante volte che se si vuole conquistare un grande pubblico, magari facendo anche qualche omelia dal pulpito, non bisogna affrontare alcuni argomenti che sono scomodi: parlare del demonio, parlare del peccato mortale e parlare della morte. Eppure proprio della morte, abbiamo visto, bisogna parlare se ci interroghiamo sul senso della vita. In fondo il senso di queste nostre conversazioni, che poi diventano un dialogo, anche cari amici, attraverso le vostre domande, sta proprio qui: capire che quelle questioni che spesso vengono passate sotto silenzio, come le più secondarie o quelle più difficili in realtà da affrontare, sono decisive per capire il senso della vita. Ricordo la metafora che più sovente mi capita di usare, anche quando in classe, insegnando filosofia al liceo, affronto questa questione con i miei studenti. Se la vita è un cammino, è evidente che per capirne il valore, la consistenza e il significato, bisogna avere ben presente la meta. E la meta sta anche nel termine di questo cammino e quindi nella morte. Abbiamo fatto un tragitto abbastanza ampio, alcune puntate ci sono servite per, diciamo così, affrontare la questione prima della morte, cioè gli interrogativi che l'uomo si pone quando è in cammino, quando si interroga sul proprio destino eterno, quando si chiede se davvero si può riconoscere come un essere almeno a due dimensioni, cioè corpo e anima. E adesso cominciamo la seconda sezione di questo libro che ho intitolato appunto Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca, per intendere che la prospettiva è quella anzitutto della domanda, della ricerca, dell'interrogarsi su quello che è un grande mistero per ogni uomo di ogni tempo, e affrontiamo proprio la questione decisiva. Proviamo a farlo ricordandoci che anzitutto è una questione che riguarda ogni uomo. Se è vero che San Francesco nel suo cantico si trova non soltanto a innaggiare al creatore per la bellezza delle creature, ma addirittura chiama sorella la morte, facendo ben presente che non c'è un solo uomo che può sottrarsi ad essa. Un testo ancora più antico dell'era precristiana, il libro del Coelet, al capitolo 3, versetto 20, dice: tutti sono diretti verso la medesima dimora, tutto è venuto dalla polvere, tutto ritorna nella polvere. È chiaro che questa è una prospettiva, per quanto sapienziale, ancora precristiana. Non c'è ancora la prospettiva della resurrezione annunciata da Gesù, e tuttavia abbiamo una grandissima verità: la morte non è un interrogativo che pochi possono essere chiamati a porsi, ma è un interrogativo dalla portata universale. Perché? Perché tutti gli uomini sono destinati ad affrontare questa esperienza limite. Allora dobbiamo chiederci che cos'è anzitutto la morte. Se volessimo rispondere a questa domanda ricorrendo a quella che è un'immensa fonte di notizie disponibile su internet, cioè l'enciclopedia online più cliccata in assoluto, cioè wikipedia.org, troveremmo questa definizione della morte. La morte è la cessazione di quelle funzioni biologiche che definiscono gli organismi viventi. Quindi hanno fine le funzioni biologiche dei viventi. Essa, continua Wikipedia, si riferisce sia a un evento specifico, sia a una condizione permanente e irreversibile. Quindi c'è il morire, che può accadere in quel momento, in quel giorno, per quella ragione specifica, ma anche una condizione, quando si è morti. Con la morte termina l'esistenza di un essere vivente, o più ampiamente di un sistema funzionalmente organizzato. Ecco, una definizione di questo tipo, è 5 righe di enciclopedia online, dicono un aspetto della morte. La morte coincide con la fine delle funzioni biologiche di un essere vivente. Per la legge italiana, più specificamente, si parla di cessazione delle funzioni dell'encefalo. Con la morte, cioè, mancando la normale ossigenazione del sangue, perché sono cessate le funzioni cardiorespiratorie, il cadavere incomincia ad attraversare una serie di cambiamenti, di mutazioni. Dapprima si raffredda, in latino si dice subentra l'algor mortis, poi si irrigidisce, il rigor mortis, e infine si hanno il ristagno e la coagulazione del sangue, il livor mortis. Sono tre stadi che dal punto di vista della fenomenologia, dell'osservazione esterna, si possono classificare. Ma capite bene che di fronte al mistero della morte, questa definizione non esaurisce tutto il significato di questa esperienza che tocca, lo ripeto, ogni uomo. E non è possibile non chiedersi: ma è davvero tutto qui? Cioè, ci possiamo semplicemente accontentare del dire la morte è la fine delle funzioni biologiche? Quando ci troviamo dinanzi alla salma di un nostro caro defunto, quando notiamo i segni della decomposizione che avanza inesorabilmente e che avrebbe poi ridotto presto o tardi in polvere quella figura, quel corpo a noi così caro, quel viso che tante volte abbiamo baciato, quella figura che tante volte abbiamo anche abbracciato, accarezzato, ma in queste esperienze dal vivo, con persone conosciute, con persone care che hanno vissuto cammini, esistenze accanto a noi, abbiamo forse mai pensato che la morte potesse semplicemente ridursi alla cessazione delle funzioni biologiche e con esse la fine assoluta della vita? Ecco, io ho alcune esperienze che mi portano a dire non può essere tutto qui. E come tante volte ho cercato di fare, unisco le mie riflessioni di ordine generale a quelle che sono un po' le mie esperienze, no? Penso che anche un attestato di fiducia tra noi che stiamo da questa parte del microfono e chi sta dall'altra parte ascolta, anche un po' nel condividere le proprie esperienze personali. Ho sempre inteso anche questa mia trasmissione qui a Radio Maria, anzitutto come il desiderio di condividere un'esperienza di vita, un'esperienza di ricerca del senso della vita e non semplicemente della teoria o il frutto di studi, per quanto importanti siano stati. E quindi parto da un'esperienza, anche questa volta. Ricordo la prima volta che ho avuto direttamente a che fare con la morte di una persona cara. Avevo 11 anni ed era mancata da poco una mia prozia di nome Maria, che da anni ormai vedevo raramente perché era ospite di una casa di riposo in un paese, una frazione di Casale Monferrato, la mia città natale. Ricordo molto bene la sera in cui si aggravò e poi morì. Sentivo in casa la gravità della situazione, sentivo i discorsi degli adulti, non coglievo le parole che avrebbero potuto farmi capire quanto fosse vicina la fine, ma sentivo un clima che era fatto di agitazione, ma anche di serietà. E il giorno dopo mi dissero che era morta, ecco, forse era morta proprio nella notte. La salma fu composta presso la casa di riposo dove aveva trascorso gli ultimi anni, e il pomeriggio del giorno successivo mia nonna materna, mia nonna Angiolina, mi portò per l'ultimo saluto alle spoglie mortali della zia Maria, come usavamo chiamarla. Io ho un ricordo abbastanza vago della situazione, però ricordo molto bene due particolari che ancora oggi sono stampati nella mia mente. Anzitutto mi impressionò molto vedere il corpo di mia zia così smagrito, lei che era stata sempre ben in carne. Un corpo rigido, bianco, era come se tutto nella sua fisicità dicesse che ormai la vita non era più in lei. La seconda cosa, e forse la più importante, che ricordo sono le parole che mi disse mia nonna Angelina: Diego, ricordati che la zia Maria non è qui, è in cielo, questo è solo il suo corpo. Io non so bene quanto compresi in profondità, ecco, di queste parole, ma sicuramente presi alla lettera questo, così, direi questo insegnamento così sapienziale e sintetico, e soprattutto il monito ricordati bene, Diego. Allora mi ripetei nella mente queste parole proprio perché si fissassero meglio nella memoria. E tornarono utili, perché passò un po' di tempo, ogni tanto ritornavo quelle parole e mi pareva che fossero un po' come un seme che era stato gettato, forse un po' precoce, in un terreno che non era ancora pronto per accoglierle, no? Ma non mi accorgevo che qualcosa stava maturando. E un giorno accadde infatti che nel mio, insomma, paese dove trascorrevo l'estate, il paese dei nonni materni, morì il macellaio. E a quel tempo, parliamo della metà degli anni 80 circa, c'erano alcune personalità nei paesi, no? C'era il macellaio, il farmacista, il prevosto, cioè il parroco, e poi il sindaco. Queste erano un po' le figure più rilevanti, no? In una stratificazione sociale del paese molto particolare. Io ero solito fare il chirichetto e anche quella volta mi sono preparato per servire messa durante le esequie e si trattava di andare a prendere il morto a casa, come si usava una volta. Io ricordo che restai impressionato. Immaginate un paese, all'epoca avrà avuto 1.400-1.500 abitanti, quando uscimmo dall'abitazione del defunto, questo macellaio, per quanto ecco conosciuto potesse essere, l'unico macellaio del paese, io non immaginavo che avrei visto un funerale accompagnato da un corteo di persone così immenso, due ali di folla che dalla casa del macellaio, che in dialetto piemontese noi diciamo il maslè, giungevano fino alla chiesa, ma ci saranno state 500-600 persone proprio messe lì in corteo, no? Tanti erano venuti quasi per rendere omaggio al macellaio nel suo ultimo viaggio. Bene, mentre seguivo il feretro, ricordo che mi attraversò la mente un'intuizione, improvvisa ma chiara come la luce del sole. Lui non è lì, quello è solo il suo corpo, ma la sua anima si trova davanti al Signore dal primo istante dopo la morte. Ecco perché mi piace collegare questi due episodi non molto distanti tra di loro, la morte della mia proprio zia Maria e la morte del macellaio, perché quelle parole che mia nonna mi aveva detto, guarda che la zia Maria non è qui, è in cielo, questo è solo il suo corpo, forse io non ero ancora in grado di capirle nel loro pieno significato, quando mi sono state dette, ma quando è stato il momento di riusarle, sono tornate a galla. Questo lo dico perché, per quanti sono all'ascolto, penso che molti si interrogheranno, da quando si può cominciare a dire ai propri figli, ai propri nipoti la verità sulla morte? Io penso da subito, usando certo il linguaggio, i concetti e le immagini che permettono a un bambino di capire ciò di cui si sta parlando, ma è importante dire la verità. È importante magari dare anche un insegnamento che può apparire un po' precoce, sapendo che poi è il buon Dio che fa in modo che questo seme possa portare frutto quando servirà. A questo punto è chiaro che dal punto di vista di chi ha fede, la morte non è soltanto un evento biologico. La definizione che vi ho proposto poco prima da Wikipedia, che parla della morte come la fine di tutte le funzioni biologiche, è ben lontana dall'idea questo è un cadavere ma l'anima è in cielo, perché si parla di una vita terrena finita e di un'eternità. Attenzione però a non credere che questa prospettiva di eternità così alternativa possa valere soltanto per i credenti. Ecco, non è vero che il pensare che la morte non sia semplicemente un evento biologico sia una questione anzitutto solo di fede. Penso che chiunque può pensare alla morte dal punto di vista biologico, come dire finiscono le funzioni vitali, ma questo vale solo quando si pensa alla morte in generale. Ma quando io penso alla morte di una persona cara, allora mi rendo conto che c'è molto di più in gioco. Quando muore quella persona che io ho amato così profondamente, qualcosa muore anche in noi. Basta pensare a tutto quello che si è vissuto con lei o con lui. Tutto avrà un sapore e un gusto diverso, perché non potrò più condividere quel tempo, quelle abitudini o quei posti. Uno può rientrare nella stessa casa in cui fino a poco prima quella persona era viva e presente e improvvisamente la si sente vuota, perché la sua voce non risuona più tra le pareti, non si sente più il suo profumo che era così familiare, non si riconoscono le cose che dicevano del passaggio di quella persona, della sua presenza, del suo vivere. Ecco, quando muore una persona cara, possono accadere reazioni molto diverse tra di loro, due reazioni direi proprio anzi antitetiche. Da una parte c'è chi crede che è tutto finito qui, quindi non c'è sopravvivenza dopo la morte, la persona è finita nel nulla. E cosa capita? Che sovente proprio quelli che affermano tanto non c'è nulla dopo la morte si trovano quasi a voler fissare l'ultimo istante di vita di quella persona e magari fanno della camera del defunto una sorta di santuario in cui il tempo possa fermarsi, quasi a voler cancellare, ma è un tentativo vano, il drammatico avvenimento che ha strappato alla vita, ma soprattutto alla mia vita, la persona amata. Ora io non sto affermando che è sbagliato conservare i ricordi della persona defunta, e anzi sono un grande aiuto perché sostengono la memoria per ripercorrere alcune delle più belle pagine della vita scritte insieme prima che lui o lei morisse. Però attenzione a non fermarsi qui, cioè a non trasformare quei ricordi in un feticcio, a non voler ossessivamente preservare, ad esempio, la cameretta da letto di un figlio che non c'è più, nello stesso medesimo stato in cui era quando il bambino era vivo, nell'illusione che questo possa contribuire a far sì che la morte non sia mai accaduta. Questo sarebbe rinchiudersi in una prigione di ricordi, sarebbe come bloccare anche la propria vita in un passato immobile in cui ci si vorrebbe rifugiare, smettendo di vivere davvero, ma soprattutto perdendo l'opportunità, questo mi sta a cuore dirlo, di vivere una comunione più autentica e profonda con quella persona defunta che però adesso vive, ma in un modo diverso, in una dimensione diversa, quella dell'eternità. Quindi un rischio è come dire non c'è più nulla, ma io provo a fissare come un'immagine, una foto, l'ultimo istante di questa vita, preservando situazioni, rapporti, camera, oggetti, come se fossero un ricordo immobile. C'è anche un rischio opposto che riguarda sempre quanti non credono però che ci sia vita dopo la morte, ed è quello di ritenere la perdita un dolore talmente insopportabile che è meglio voltare pagina. Allora si gira pagina in modo radicale e, se possibile, si cancella ogni ricordo. Allora ecco che, per stare all'esempio della camera del figlioletto che scompare prematuramente, si fa piazza pulita di ogni oggetto, vestito, arredo che possa ricordarlo, si svuota ogni ambiente della casa di tutte quelle tracce della persona defunta in modo da sottrarsi così a ogni ricordo che possa essere involontario ma sempre comunque doloroso. Ci si accontenta di eliminare gli oggetti, a volte invece si va anche al di là, si cambiano i mobili, si ridà il colore alle pareti, se no magari addirittura si lascia quella casa perché uno non riesce più a viverci. Ora, anche questo è un estremo tentativo di reagire alla morte di una persona cara negandola, e chiaramente ci va una prudenza, a volte può essere anche un bene cambiare la casa in cui si abitava prima, perché se c'è un peso dei ricordi insostenibile per una personalità magari fragile, è evidente che bisogna anche essere prudenti nel decidere cosa mantenere e cosa no. Però è essenziale che non si creda che eliminando tutte le impronte del passaggio su questa terra e soprattutto nella nostra vita di una persona che ormai è defunta, si possa affrontare meglio il dolore per la sua scomparsa. I nostri cari infatti lasciano una traccia molto più profonda nel nostro cuore, e anche se io cerco di eliminare tutti gli oggetti e le cose che mi ricordano quella persona, in realtà non spezzo il legame che profondamente mi unisce ad essa nel mio cuore. Io credo che il voler veramente bene a queste persone debba andare oltre il preservare degli oggetti come feticci di memorie irrecuperabili o girare pagine volendo rimuovere, ecco, quasi il ricordo delle persone. Penso che invece uno debba ragionevolmente interrogarsi se non ci sia un'altra strada, se non sia possibile un'altra vita nella quale recuperare proprio il rapporto con questa persona amata. Ma interrogarsi in questo modo vuol dire, ad esempio, prendere sul serio le domande e anche le risposte che la fede cristiana ha cercato di dare di fronte al mistero della morte. Tra le tante ipotesi, penso che una delle più interessanti sia quella che viene proposta da Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, che vive nella seconda metà del IV secolo, padre della Chiesa, vescovo di Milano, grande protagonista anche nella conversione di Sant'Agostino, che proprio da Ambrogio riceve il battesimo, scrive una breve operetta intitolata De Bono Mortis, il bene della morte. Un titolo che può suonare provocatorio per noi uomini moderni, che pensiamo alla morte unicamente come la più grande delle sventure, ma nei primi secoli del cristianesimo i fedeli cristiani avevano sviluppato una profonda teologia della morte. Perché? Perché le persecuzioni non mancavano, gli imperatori romani perseguitavano i cristiani, la morte era quasi esperienza quotidiana, oltre alle difficili situazioni di vita che caratterizzano i primi secoli dell'era cristiana per qualunque uomo, ed ecco che allora si cerca di cogliere la vera natura di questo avvenimento drammatico, a cui nessuno può sottrarsi, ma che soprattutto sui cristiani dei primi secoli, penso alle persecuzioni da Nerone a Diocleziano, quindi dal 68 al 300 circa dopo Cristo, evidentemente questi si abbattevano sui cristiani con una violenza inaudita e spingeva a porsi un interrogativo sulla morte. Ma la morte poteva essere vista anche come un bene, pensavano i cristiani, anche in quelle situazioni così drammatiche. Perché? Beh, lasciamo la parola proprio a Sant'Ambrogio. Si distinguono tre generi di morte. Innanzitutto la morte causata dal peccato, della quale è scritto l'anima peccatrice morirà. Quindi primo genere di morte, la morte dell'anima, la perdita della grazia, il peccato mortale. L'altra, dice Sant'Ambrogio, è la morte mistica, che si ottiene quando uno muore al peccato per vivere a Dio, e della quale, dice l'Apostolo, attraverso il battesimo siamo consepolti con lui nella morte. Bello, no? Anche qui c'è il peccato come riferimento, ma non è una morte subita, ma una morte cercata. Muoio al mondo, per me il mondo non esiste più, è come se la vita, con i suoi piaceri, le sue tentazioni, le sue seduzioni, non mi dicesse più nulla. Quindi c'è una morte nel peccato, che è quella che toglie la grazia, la vita di Dio all'anima, c'è un morire al mondo che invece dà la vera vita all'anima. E poi dice Sant'Ambrogio, c'è un terzo tipo di morte, quello con cui portiamo a termine il servizio e cammino di questa vita, cioè la separazione dell'anima dal corpo. E notiamo dunque come si abbia una morte cattiva quando si muore a causa del peccato, una buona quando chi muore è assolto dal peccato, la terza è intermedia perché sarà buona per i giusti e temibile per i più. Ecco, questa citazione, forse non tanto lunga quanto densa e profonda, anticipa temi che non abbiamo ancora affrontato, ma intanto introduce nella complessità dell'evento. Grazie a Sant'Ambrogio possiamo distinguere diversi tipi di morte, o meglio, diversi aspetti della stessa realtà, che pone un termine alla vita umana, un termine che per i cristiani non è definitivo ma è transitorio. Tre aspetti che rendono più complessa la questione della morte, che come si vede non è riducibile alla pura fattualità, né si può comprendere dal semplice punto di vista della scienza medica, perché parlare della morte dell'anima, morire al mondo o morire a livello biologico sono tre orizzonti diversi, siamo ben oltre quella definizione puramente fisiologica, biologica e medica con cui abbiamo aperto questa conversazione. Allora la morte così è la fine della vita del corpo, ma è anche la fine del pellegrinaggio terreno. Finisce la vita biologica, finisce anche il tempo durante il quale l'uomo può meritare la propria salvezza. L'espressione pellegrinaggio terreno non è scelta a caso, perché la vita è un cammino indirizzato verso una meta, come tante volte ci siamo detti. Un cammino che al tempo stesso non è privo di difficoltà, di ostacoli e di fatica. Ancora una volta cito aspetti della vita di cui tutti gli uomini fanno esperienza, così come ognuno ha la consapevolezza che la morte è un'esperienza che toccherà a tutti. Ci tengo molto a evidenziare questo aspetto di universalità della questione, perché qualcuno potrebbe pensare, ma sì, interrogarsi su queste questioni va bene o per chi è un po' triste, chi è un po' malinconico, o per i cristiani. No, no, è un interrogativo che qualunque uomo si deve porre. Quando alcuni miei colleghi a scuola introducono il buon Leopardi dicendo poverino, ha avuto un'adolescenza molto inquieta e triste, e quindi è ovvio che si facesse certe domande sulla vita, la morte, il dolore. No, non è un problema di Leopardi che ha sofferto e quindi si fa delle domande. Il problema è che in Leopardi emergono con una certa urgenza, una certa acutezza e anche con una certa sofferenza interiore delle domande che qualunque uomo dovrebbe farsi, perché come dico ai miei studenti, soltanto gli animali mirano a vivere il più a lungo possibile, l'uomo vuol vivere bene, noi non siamo mici o lombrichi, siamo uomini, esseri razionali, capaci di ragionare in maniera discorsiva, desiderosi di vivere una vita in pienezza. Allora è importante ricordare quello che dice Seneca, Non c'è nulla di più certo della morte, non perché sappiamo come e quando accadrà la nostra morte, ma perché siamo sicuri che moriremo. Tutti gli uomini devono affrontare questa esperienza. Allora capite, cari amici, che non ha senso passare sotto silenzio quello che sembra essere invece un passaggio obbligato per chiunque. E ancora una volta, torno a dirlo, non parliamo semplicemente di una morte nel senso biologico, ma anzitutto come prospettiva di significato della vita dell'uomo. Se tutti gli uomini devono affrontare questo passaggio, allora non ci stupisce vedere come, soprattutto nel Medioevo, che incautamente gli umanisti definivano come un'epoca oscurantista, di nebbie oscure, di pregiudizi e di fideismo, in realtà c'era una consapevolezza antropologica della fragilità umana, della precarietà dell'esistenza profondissima, al punto da sviluppare una vera e propria arte di ben morire, la cosiddetta ars moriendi, mentre al contrario oggigiorno si cerca di non pensarci, fin quasi a negare tale realtà che è innegabile. Insomma, la morte è un male e noi facciamo di tutto per evitarla. Nessun uomo la potrebbe ritenere un fatto naturale, semplicemente uno dei tanti elementi della vita dell'uomo, ne siamo fatti per vivere. Ecco perché suona molto vero quanto ha scritto Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa dell'inizio del V secolo, quando dice: l'intera speranza della fede cristiana è costruita sulla resurrezione dei morti. Altri hanno poi evidenziato la valenza positiva della morte, viene in mente San Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 21, quando dice: per me vivere Cristo è morire un guadagno. Tuttavia, come dice San Tommaso, dal punto di vista umano la morte rimane una delle più grandi sfortune, forse la più grande di tutte, ed è una realtà tanto affascinante e misteriosa quanto drammatica e terribile, perché è un po' la frontiera tra ciò che l'uomo conosce e ciò che gli sfugge, tra il transitorio e l'eterno. È chiaro che questi interrogativi hanno ben poco a che fare con la fede. Con la fede avranno a che fare le risposte a questi interrogativi, ma gli interrogativi sono, prima che cristiani, interrogativi umani. Ora, per cominciare a comprendere il senso della morte non come fine assoluta, ma come una porta che spalanca una prospettiva di vita diversa, credo si debba partire dal considerare la morte come ultima agonia. Se la morte può essere intesa come una frontiera estrema da attraversare, dobbiamo riconoscere che non è un passaggio indolore. E si parla spesso di una ultima agonia. Agonia dal greco vuol dire battaglia. La morte è l'ultima battaglia. Perché la si definisce così? Per indicare che è l'epilogo di una lotta che abbiamo condotto tutta la vita. Qui non mi riferisco alla lotta per la sopravvivenza della specie, come avrebbe detto Darwin, né al fatto che quando uno è prossimo alla morte rivede tutta la vita come se, non so, cercasse in estremo di sfuggirle, curando malattie, nutrendosi in modo sano, facendo sport, guidando con prudenza, evitando i rischi inutili, no? O di metterci in situazioni pericolose. Abbiamo vissuto tutta la vita cercando di sfuggire alla morte, no? Ma non è questo l'aspetto per cui si dice la morte si vive come l'ultima agonia. Questa battaglia che si gioca sul letto di morte non è quella per salvarsi la pelle, ma per salvarsi l'anima. E qui torno ancora a dire che quando ci vengono a dire in tempo di pandemia che il bene principale è la salute, ci stanno prendendo in giro, commettendo un errore non da un punto di vista cristiano, ma da un punto di vista proprio antropologico, universale. Nessun uomo può pensare che la salute sia il bene principale, è il bene fondamentale, non mi stanco di ripeterlo. La vita e quindi la buona salute sono il fondamento di tante altre libertà, di tanti altri beni, tante altre felicità, ma non sono i principali, perché noi dedichiamo monumenti e commemorazioni storiche ai grandi eroi del passato che non sono quelli che sono morti per ottenere una buona salute, ma sono morti per difendere la libertà, per l'amore, per le grandi passioni e ideali che per l'uomo contano più della semplice vita. Allora, quando ci viene chiesto di rinunciare alla libertà dicendo anzitutto che quello che conta è la salute, si dice una falsità. E aggiungo anche, con una nota di dolore, pensando a tanti casi del passato, a me familiari, ma penso anche a tante esperienze che saranno purtroppo una parte di quei dolori, di quelle sofferenze che si portano dietro tanti dei nostri ascoltatori in questo momento, penso a quelle persone che sono arrivate al punto di pensare di farla finita, addirittura hanno commesso un suicidio. E molte persone che hanno scelto questa strada drammatica lo hanno fatto pur scoppiando di salute, per altre situazioni, altri problemi, mancanza di senso, solitudine, angoscia, avendo magari i valori della glicemia, del diabete, del colesterolo perfetti. Ora, il demonio, per invidia nei confronti del creatore, vuole portare quante più anime possibili alla dannazione. Ecco che allora cosa fa? Si presenta proprio al capezzale del moribondo e cerca di indurlo alla disperazione, alla rabbia, alla bestemmia, a rifiutare in ultimo Dio. Questa è l'ultima agonia, questa è la battaglia, l'anima che lotta contro il demonio che cerca di portarla alla disperazione. Qui posso citare alcuni episodi in breve, ma confermare quanto detto, poi chi desidera li trova sul libro più ampiamente descritti. Anzitutto il primo riguarda la beata Chiara Luce Badano, che è una giovane originaria del Sassello, in provincia di Savona, diocesi di Acqui, appartenente al movimento dei focolari, che è stata stroncata a poco più che 18 anni da una grave forma di tumore osseo nel 1990. Per l'eroicità delle sue virtù cristiane, per la capacità di affrontare la malattia e la morte con grande serenità e con totale disponibilità al disegno di Dio, su di lei, e oltre che avere anche interceduto, no, presso il Signore per un giovane gravemente malato, Andrea Bartole, che ha ottenuto poi una guarigione miracolosa, Chiara Luce è stata beatificata il 25 settembre 2010. C'è il sito chiaralucebadano.it in cui si trovano tantissime informazioni, foto, testimonianze, però non trovate quella che vi sto per raccontare adesso, perché alcuni anni fa mi è capitato di incontrare Chiara Luce, quasi per caso. 10 anni fa sono stato in montagna e con alcuni ragazzi dell'oratorio ho visto questa foto di questa giovane bellissima con occhi di una luce particolarissima. Pensavo che fosse la foto di qualche ragazza del posto, forse mi è stato anche detto il nome Chiara Luce, ma non ne ho fatto memoria. Fatto sta che all'inizio del 2011, rientrato da un pellegrinaggio a Međugorje, mi trovo il giorno dopo a Casale, faccio messa nella parrocchia dei Salesiani e, terminata la messa, durante il ringraziamento della comunione, ho proprio sentito come se Chiara Luce mi invitasse ad andarla a trovare al Sassello. E ho creduto a questa voce, a questo invito, e sono andato e sono stato sulla tomba di Chiara al cimiterino ai margini del Sassello, ho potuto incontrare i genitori, ho visto la camera dove aveva vissuto gli ultimi 2 anni, da quando era sorta la malattia fino alla morte, e da lì ho cominciato a sentirla sempre molto vicina e a pregare perché potesse intercedere per me, ma anche per le persone che mi chiedevano preghiere. Beh, passato qualche tempo mi sono trovato ad accompagnare una persona bisognosa di preghiere di liberazione da un intercedere per me, ma anche per le persone che mi chiedevano preghiere. Beh, passato qualche tempo mi sono trovato ad accompagnare una persona bisognosa di preghiere di liberazione da un esorcista, e dopo poco che era cominciata la preghiera, l'indemoniato è andato in crisi e il diavolo ha cominciato ovviamente a bestemmiare e a insultare il sacerdote. Mentre pregavo per accompagnare in quella lotta spirituale che è l'esorcismo, la persona ossessa, mi è venuta un'intuizione: perché non invocare Chiara Luce? E così mi sono permesso di suggerire all'esorcista proprio di chiedere tra gli altri santi che stava invocando, tra gli altri ricordo Santa Gemma Galgani, San Giovanni Paolo II, San Pio da Pietrelcina, San Charbel, ma prova a invocare anche, ho detto, Chiara Luce Badano. Appena l'esorcista ha invocato il suo aiuto dicendo beata Chiara Luce Badano, prega per lui, il demonio si è scatenato, ha cominciato a maledire Chiara dicendo quella vipera mi ha resistito fino alla fine, quando sul letto di morte io mi accostavo a lei e le dicevo Chiara vieni con me, Lei guardava Gesù, lì vicino a lei gli diceva: Gesù, io sto con te, non ha ceduto. Ecco, pensate quale testimonianza ha dovuto rendere il demonio di quella che è stata l'ultima agonia di Chiara. E poi, riferendo questo episodio ai genitori, ho avuto conferma che anche altre volte durante la malattia il demonio aveva cercato di impressionare Chiara, di indurla a dubitare di Dio, cercando di spaventarla per quello che avrebbe dovuto affrontare in termini di paura e di sofferenza fisica e morale. Ma Chiara non è più tornata indietro dalla decisione di lasciarsi avvolgere da questo, come lo chiamava lei, splendido disegno, dicendo con insistenza e con amore grandi: se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io. Io so che, sentendo questo episodio, uno potrebbe dire: beh, ma questo episodio di ultima agonia è chiaro che riguarda anzitutto una persona santa, una persona specialissima, alla gente normale non capitano queste cose. Beh, ma qui allora mi viene da dire, posso condividere un altro aneddoto che riguarda una persona che oggi io credo santa al cospetto di Dio, ma non sicuramente da parte della Chiesa per quello che è il calendario ufficiale, no, dei santi canonizzati. Parlo di mio zio Angelo, il fratello di mio padre e mio padrino di cresima. Angelo, che ha avuto un'educazione cattolica, poi per tanti anni si era allontanato dalla pratica ed era ritornato a credere e a praticare confessione, comunione, rosario quotidiano dopo alcuni anni di malattia che lo avevano aiutato per abbandonare la rabbia e la ribellione che per tanto tempo l'avevano portato a vedere Dio come un nemico, invece che come un padre buono e amoroso che avrebbe voluto tanto riabbracciarlo. Quindi Angelo si era riavvicinato alla fede, era stata una sorta di riconversione, ecco, un ruolo importante l'ha avuto anche la regina della pace di Medjugorje, dove Angelo, insieme alla moglie Maria Teresa, ha voluto recarsi in pellegrinaggio, anche se le condizioni di salute erano molto, molto precarie, era una forma di leucemia del midollo osseo. Una volta che la malattia si è stabilizzata e ha ritrovato la fede, ecco che purtroppo alla fine del 2012 viene diagnosticato un altro male, il mesotelioma. È una diagnosi molto nefasta, soprattutto per chi vive a Casale Monferrato e dintorni, perché uno stabilimento che produceva proprio queste fibre di amianto e cemento, l'Eternit, ha portato a migliaia di morti, ecco, a Casale e nel mondo, con processi penali di rilevanza internazionale, cause infinite, risarcimenti, sentenze, appelli, anche se alla fine non c'è nessun risarcimento materiale che può ripagare la vita di una persona cara. In ogni caso, la diagnosi di mesotelioma, il tumore, no, legato all'amianto, da una diagnosi con una prospettiva di vita di 3 o 4 anni. Nel caso di mio zio, che già era malato anche di mieloma, chiaramente l'aspettativa era abbastanza corta, no? E ricordo che nell'estate del 2013 lo accompagno ad una visita medica e i medici che dicono a mio zio: ma no, la situazione è stabile. Ma allora, a quel punto, visto che si guardavano in silenzio, ho detto: ma scusate, ma quanto credete possa essere l'aspettativa di vita? E forse era la prima volta che una persona faceva una domanda così diretta, e forse fino allora si era andati avanti dicendo: beh, lui non fa domande e noi non diamo risposte. E quindi mi hanno guardato dicendo: ma perché, scusi? No, no, guardi che è importante sapere quanto tempo c'è per prepararsi. Da 1 a 4 mesi, mi ha risposto il medico. Siamo tornati a casa in silenzio. Poi nei giorni seguenti mio zio Angelo ha scelto di alleggerire la moglie Maria Teresa anche dal peso di poterlo accudire e ha scelto di andare lui all'hospice. È entrato il 30 settembre del 2013. Durante la giornata era quasi sempre a letto, immobile, il respiro sempre più affannoso, l'ossigeno sempre più necessario per affrontare la giornata, e ricordo che io mi fermavo a volte anche da solo e la parola di Dio si apriva un po' e ha cominciato a dirmi: ma sai che a volte sento un po' un'angoscia, mi sento proprio solo. E detto: ma perché, Angelo? Ma perché poi la notte qui è tutto così buio? E detto: ma come buio? Ma c'è la luce del corridoio che è accesa 24 ore al giorno. Ma ho capito che forse parlava di un buio, di un'oscurità diversa, un buio interiore, quella oscurità che prende l'anima di chi è prossimo ad affrontare il passo decisivo. E quel passo decisivo è esattamente quello di affrontare la morte. L'agonia, la battaglia che siamo chiamati ad affrontare è anche la battaglia che affrontiamo quando dobbiamo fare i conti con le nostre paure. Al che ho chiesto consiglio proprio a un amico sacerdote che mi ha detto: credo che il demonio stia tentando tuo zio, il mesotelioma è una seconda malattia. Per lui che già era malato di questo mieloma, si è riavvicinato alla fede, immagina il demonio che sta a guardare mentre rischia di perdere un'anima in questa maniera. Certo, la regina della pace aveva messo il suo mantello su Angelo, cercava di proteggerlo in tutti i modi, ma il demonio tentava in tutte le maniere di non perdere quest'anima. Allora mi suggerì di fargli avere l'unzione degli infermi e così chiesi a un sacerdote di venire a portargliela e dissi: guarda Angelo, poi la gente ha paura quando si dice l'estrema unzione, ho detto: ma prendi l'unzione degli infermi, l'olio degli infermi. A cosa serve? Guarda, immagina che un nemico ti voglia ghermire perché non ti possa afferrare, intrappolare, cerca di scivolare via dalle sue mani. Se sei bello unto di olio, scivoli via, eh? Non è che si può tenere una preda così saldamente tra le mani se ben cosparsa di olio. Con questa piccola metafora, che sapeva più di una battuta per drammatizzare, ha detto: va bene, alla sera riceve l'unzione degli infermi, al mattino dopo, quando vado a trovare mio zio, mi dice: erano mesi che non dormivo così bene. Allora, questa cosa la dico proprio tenendoci, perché so che tanti che sono all'ascolto si interrogano rispetto a episodi che sono capitati loro nel passato o a situazioni magari presenti o possibili nel futuro. Cosa faccio quando una persona cara è malata gravemente? Chiedo i sacramenti o aspetto perché magari si spaventa? Ecco, molti aspettano e diventa troppo tardi, perché dicono: no, no, per carità, se chiedo l'estrema unzione poi pensa che deve morire. Ma intanto dico: tutti dobbiamo morire, e quando uno è malato gravemente lo sa da sé che è gravemente malato. Ma poi l'olio degli infermi è un aiuto grande, è un aiuto nella malattia, per ottenere la guarigione fisica, per ottenere la fortezza dell'animo, quelle armi spirituali, morali e fisiche che servono per affrontare questa battaglia. E io posso dirvi che mio zio è morto, e una volta composto, è morto con il rosario in mano, è morto il 16 ottobre 2013, e una volta composta la salma si è notato che il viso era sereno e la gente passava e diceva: ah, vuol dire che è morto senza soffrire. No, no, ha sofferto tanto, perché il mesotelioma non permette di fare una morte così serena. Negli anni si trovano sempre rimedi più efficaci come terapie del dolore, ma non è facile. La serenità che aveva sul volto mio zio era la serenità di chi muore nella pace, non di chi muore senza soffrire. E questo è il segno più importante. Questo è il segno che io penso ci fa capire che non ci si può accontentare dell'aspetto biologico. Per mio zio, a livello biologico, non è successo niente di diverso rispetto a quello che uno poteva immaginarsi semplicemente leggendo la cartella clinica. Ci si aspettava la morte entro un certo tempo, addirittura forse arrivata prima del previsto, ma dal punto di vista spirituale, dal punto di vista di un orizzonte di senso e di significato che va oltre l'esistenza puramente terrena, ecco che invece è successo qualcosa di grande. Perché? Perché c'è stato un abbandono completo nelle mani di Dio, il desiderio dei sacramenti, ricevere la comunione prima della morte, affidarsi a Gesù e alla Madonna, sapendo che il demonio si sarebbe presentato da una parte del letto, come faceva con la beata Chiara Luce Badano, ma dall'altra c'era Gesù. E concludo ricordando brevemente un aneddoto, uno dei sogni di Don Bosco, quando racconta in un sogno di aver incontrato San Domenico Savio, che era morto già da qualche anno, lo vede in quello che definisce l'anticamera del Paradiso, un luogo bellissimo, prati fioriti, una vegetazione lussureggiante, ruscelli, e San Domenico qui dice: ma questo non è ancora il Paradiso, se tu vedessi. E mentre rimprovera un po' Don Bosco, dicendo: non ti sei fidato abbastanza, se ti fossi veramente fidato di Dio e dell'Ausiliatrice avresti triplicato le anime portate al Signore, poi Don Bosco gli chiede: cos'è che ti ha confortato di più, ecco, in punto di morte? E San Domenico dice: prova a immaginarlo, secondo te cos'è stato che mi ha dato conforto in punto di morte, quando si affronta l'ultima agonia? Don Bosco dice: il fatto che hai conservato la purezza fino alla fine. San Domenico dice: no, grande conforto mi è venuto da quel pensiero, ma non è stato quello il più grande. Allora Don Bosco prova un secondo tentativo: forse ti ha confortato il pensiero di aver fatto tanto bene per il prossimo nel corso di tutta la vita. No, dice San Domenico, è stato un pensiero confortante anche quello, ma non era quello il più importante. Ma allora, dice Don Bosco, cos'è che ti ha dato veramente conforto? E San Domenico dice: la presenza della Madonna accanto a me. Ecco, io credo che dovremmo avere proprio questa apertura nei confronti di questo grande mistero che è la morte, nel quale ci siamo addentrati inizialmente in questa conversazione, anche questa sera. Posso dire che è un mistero inesauribile secondo la misura della mente dell'uomo, ma che può portare tanta serenità in chi lo affronta nella prospettiva e nella luce della fede cristiana. Cominciamo col dire che è una domanda che riguarda tutti gli uomini, cominciamo col dire che la morte come ultima agonia pone delle domande che vanno ben al di là della salute corporea e riguardano invece la salvezza dell'anima. E in quest'ottica è evidente che, come ha detto San Domenico Savio, come ha sperimentato anche tanti dei nostri cari che ci precedono in cielo, quello che conta è fare di tutto perché l'anima si possa salvare, perché ci possiamo aprire alla misericordia di Dio e al suo perdono, ma soprattutto per avere accanto a noi Gesù e Maria nel momento decisivo. Quando diciamo l'Ave Maria, ricordiamoci che chiediamo proprio alla Madonna di pregare per noi adesso, in questo momento presente e nell'ora della nostra morte. Sia questa la cornice, la prospettiva in cui affrontare, con le giuste domande, ma anche il desiderio di opportune risposte, la questione della morte. Ecco, cari amici, ci fermiamo qui per questo momento, facciamo una breve pausa musicale, poi ci vediamo con le vostre domande tra pochissimo, in diretta. Domande che vi prego, come sempre, brevi e in tema con quanto ho presentato. A tra poco. Pronto? Pronto, professore? Buonasera. Buonasera, professore. Senta, io da pochi giorni ho perso l'unico membro della mia famiglia che tenevo, mio fratello giovane. Quindi sono in un dolore indescrivibile. Come si chiama? E Mio fratello si chiama, io mi chiamo Maria Teresa suo fratello? Luciano. Grazie. Senta, professore, fratello, praticamente lui ha partecipato fino all'ultimo, quasi che poteva, è morto di un male incurabile in poco tempo, e sempre alla messa. E io però non ho avuto il coraggio di dire se voleva i sacramenti. Perché lui fino all'ultima ora, pensava che ce la poteva fare, che poteva guarire, che poteva guarire. Però fino al giorno prima ha ricevuto la comunione, la Santa Comunione. E come ha detto lei prima, mio fratello, sì, scavato dalla malattia, però dopo poche ore, allora ha avuto un viso disteso bellissimo, sulle labbra sembrava che bozzava un piccolo sorriso. Che bello, grazie, grazie Maria Teresa per questa testimonianza che è di conforto per me, per tutti coloro che ascoltano, e sono contento anche di poter conoscere il nome di tuo fratello Luciano, perché così lo affidiamo alla preghiera, all'intercessione della grande famiglia di Radio Maria. Mi permetto di dire che sicuramente la paura, ecco, di poter presentare come imminente la fine dei propri cari è umanamente comprensibile, ma è ancora più importante dare loro il sollievo e l'aiuto dei sacramenti. Nel tuo caso, sicuramente aver partecipato alla messa fino all'ultimo è stato un vero sollievo spirituale. In fondo, il viatico che si riceve proprio per l'ultimo viaggio è la comunione. Averla ricevuta, immagino, per una vita di pratica, segnata anche dalla vita sacramentale, dalla confessione ecco, frequente, è sicuramente una garanzia di poter ottenere tutti quei mezzi che concorrono alla salvezza. E una prova viene anche proprio da questo viso disteso che è segno di una pace interiore. Ma accanto a questo, che mi porta a dirti trova sollievo nel dolore per questo distacco, attraverso la certezza di questi indizi che ti dicono che c'è stata un'anima che sicuramente è stata accolta nella salvezza che Dio offre a coloro che lo cercano fino alla fine. Prega per tuo fratello con tutti i mezzi che la Chiesa offre, le sante messe, i suffragi, le offerte, le indulgenze, in modo che il purgatorio che dovesse fare la sua anima possa essere abbreviato il più possibile. E poi però, lo dico per quanti sono all'ascolto, traiamo spunto da questa esperienza che è più un'eccezione che una regola, per dire comunque non esitiamo a proporre i sacramenti, sapendo che proprio il modo in cui li proponiamo può fare la differenza. Lo ripeto, l'estrema unzione, la Chiesa stessa la indica ormai come l'olio o l'unzione degli infermi, e l'infermo è una persona che è malata e quindi serve per un malato per affrontare quella che poi può diventare l'ultima agonia. Non è detto che lo sia, ma è bene avere la consapevolezza che con questi mezzi, con questi strumenti è possibile affrontare la battaglia. Sarebbe un po' come se uno dicesse non prendo la medicina, non faccio la chemioterapia, perché allora vuol dire che ho un tumore. In realtà, come si prendono le medicine, anche quelle più gravi, per affrontare le malattie più difficili, così è anche dei mezzi spirituali. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Io mi chiamo Manuela, hai telefono? Manuela, chiamo dal Ticino. Allora, bene. Ascolti, io ho perso mio marito 5 anni fa e diciamo che era una decina d'anni che si era riconvertito e prima non frequentava niente nella chiesa né niente. Però purtroppo è morto di un incidente molto grave ed è morto sul colpo. Dunque non ha ricevuto nessun sacramento né niente. Cosa devo pensare, visto che non ha potuto dire l'ultimo amen al Signore di questo? Come si chiama suo marito, se posso chiederglielo? Si chiama Felice. Grazie, grazie. Ma allora, ecco, intanto vorrei sentire proprio da lei una cosa confortante, certo, perché questa cosa mi tortura da 5 anni. Certo, io prego il buon Dio che possa darle la luce per ritrovare finalmente la pace e la consolazione che è giusto che abbia, perché Felice non ha scelto il modo improvviso con cui terminare il proprio pellegrinaggio terreno, e nel caso di morti violente, improvvise, quando non si possono ricevere i sacramenti, la Chiesa cerca di andare incontro con la misericordia di una madre al destino dei figli, facendo presenti queste ragioni. Anzitutto, come nel caso di Felice, quando si è abbracciata la fede, anche se magari un po' in ritardo, ci si apre comunque a poter ricevere la piena ricompensa. Ricordiamo la parabola degli operai dell'ultima ora, anche chi è andato a lavorare alle 5 di pomeriggio ha poi ricevuto un denaro, cioè la pienezza della ricompensa promessa dal padrone per chi avesse lavorato nella vigna. Quindi anche alla fine conta. Pensiamo all'episodio che per antonomasia forse si può citare come conversione dell'ultimo momento, il buon ladrone. Quindi quello che conta è decidersi per Dio, fosse anche nell'ultimo istante della vita, ma è importante che sia nella vita. Normalmente si pensa i sacramenti sono però necessari per ottenere la grazia per la salvezza. Ecco, la Chiesa precisa nella teologia sacramentaria che si tratta di una necessità relativa e non assoluta. Cosa significa? Che è vero che è necessario confessarsi, è necessario ricevere la comunione come viatico, è necessario ricevere l'olio degli infermi per dire ho ricevuto i sacramenti che mi preparano in maniera opportuna alla morte, ma è una necessità non assoluta ma relativa, cioè vale relativamente a quelle persone che hanno la possibilità di chiedere e ottenere questi sacramenti. Se non è possibile, La grazia di Dio trova la via del cuore dell'uomo per modi che soltanto Dio conosce. In quell'ultimo istante il tempo si dilata ed è possibile, in una maniera davvero incomprensibile per la misura dell'uomo, che Dio riesca a offrire i mezzi e gli strumenti necessari per la salvezza. Il pentimento è questione di un istante. Ricordo spesso e sovente, anzitutto a mio beneficio, e mi scuso per quegli ascoltatori che mi sentono ripetere per l'ennesima volta questo episodio, quando quella vedova si presenta da Padre Pio disperata perché il marito si era suicidato buttandosi in un fiume, e Padre Pio le dice: non disperare. E lei: ma com'è possibile? Mio marito si è suicidato. Non temere, perché tra il ponte e l'acqua del fiume c'è stato il tempo per un Gesù perdonami. Chissà, pur nella dinamica violenta e improvvisa di una morte, se non c'è stato anche questo tempo. E allora lo dico anche come indizio di una fede concreta nella comunione dei santi per tutti voi che siete all'ascolto in questo momento: quando sentiamo notizie di cronaca, di incidenti, di morti violente, abbiamo sempre un pensiero per l'anima di colui che è morto, chiedendo a Dio di raggiungere con la sua divina misericordia quell'anima, pregando anche a posteriori perché quell'anima possa aver avuto questo barlume di coscienza che permette di ottenere questa grazia. Ecco perché è così importante essere fedeli alla preghiera della coroncina della Divina Misericordia. Lunedì 5 ottobre ricorderemo Santa Faustina Kowalska, apostola della Divina Misericordia. È fondamentale questa preghiera perché è un aiuto per l'anima che nelle condizioni a volte più imprevedibili deve poter attingere a questo abisso di grazia che Gesù apre per tutti gli uomini che vogliono accoglierla. Pronto? Pronto. Buonasera. Pronto, buonasera. Molto bene, come si chiama? Mi chiamo Gerardo e chiamo da Castellabate, in provincia di Salerno. Benvenuto. Grazie. Volevo solo una conferma, una, come dire, una delucidazione o un consiglio. Io credo nella reincarnazione. Se faccio male, ho fatto male fino ad oggi, se è vero, esiste, non esiste, io ci credo. Lei cosa mi dice? Grazie Gerardo, grazie per questa domanda. Noi stiamo andando verso la conclusione del tempo a disposizione e rassicuro gli ascoltatori che volessero una risposta più ampia di quella che tra poco darò, dicendo che è un argomento che nello specifico affronterò in una delle prossime conversazioni, ma qualcosa in breve posso dire. La reincarnazione non trova spazio alcuno nella visione cristiana della vita, e a ben vedere, con un po' di ragionevolezza, la si può escludere per almeno un paio di motivi. Primo, non avrebbe senso immaginare una reincarnazione, pensiamo alla trasmigrazione dell'anima secondo i misteri orfici degli antichi, come ancora pensava anche il buon Platone, non avrebbe senso una reincarnazione che escludesse la piena consapevolezza delle vite vissute, perché in realtà sarebbe come immaginare che il corpo è semplicemente una casa, un guscio che si cambia da una vita all'altra, ma un'anima che viene lavata, ripulita completamente anche della memoria. Per cui sarebbe quasi come una teoria che in realtà è disincarnata rispetto all'esistenza concreta. Immaginate se nella vita di ogni uomo, passando dalla fanciullezza alla giovinezza, alla maturità, alla vecchiaia, dovessimo dimenticare tutte quelle parti di vita che abbiamo vissuto, perderemmo il nostro io. Quale identità rimane se in questo ciclo di reincarnazioni neppure se ne ha consapevolezza? Due, non è vero che questo aiuterebbe la persona ad acquisire una maggiore responsabilità nei confronti della vita. Quando Gesù parla della vita dell'uomo e dice: nessuno può aggiungere un'ora sola alla sua vita, immaginate se si può aggiungere una vita a questa vita. Questa vita ha un valore immenso, questa vita terrena, proprio perché è propedeutica a quella eterna. E immaginare di potersi reincarnare ridurrebbe il corpo a una semplice casa, una sorta di appunto guscio esteriore e anzitutto la persona all'anima, e due, depotenzierebbe quella che è la responsabilità morale dell'individuo. Le nostre azioni valgono nel corso di una vita. Ho detto prima che la divina misericordia può coprire una moltitudine di peccati anche alla fine della vita, guai a noi se pensassimo tanto poi mi posso reincarnare, perché questo forse porterebbe una forma di disimpegno. C'è un certo fascino in questa idea che, lo ripeto, non appartiene alla tradizione cristiana e, come ho cercato in breve di dire, non ha neanche quei crismi di ragionevolezza per cui l'uomo in quanto tale potrebbe cercare di accoglierla come l'ipotesi più interessante per il suo destino eterno, però interessante perché almeno dice la vita dell'uomo non finisce semplicemente con la morte terrena ed esiste un'anima che sopravvive al corpo. Quello che però conta è che il valore pieno, il senso pieno di questa vita terrena si salva soltanto immaginando che la vita terrena sia una, che la persona abbia un'identità che si costruisce anche con la memoria vissuta del proprio passato. Ecco, con questo, cari amici, credo che possiamo concludere questa puntata. So di approfittare sempre della vostra disponibilità, perché tanti di voi mi scrivono e quindi contribuiscono anche a suggerire quegli stimoli e quelle questioni che poi cerco di proporre nelle conversazioni. Siamo in un tempo particolarissimo, in questa notte tra il 3 e il 4 di ottobre, quando si ricorda il transito, cioè la morte di San Francesco. Vi chiedo proprio di ricordare questo grande santo per chiedere di intercedere presso il Signore e avere, ecco, pensieri di consolazione quando contempliamo il mistero della morte, la nostra e quella dei nostri cari. Come sempre vi chiedo poi di ricordarmi nelle vostre preghiere, di pregare per il Santo Padre, per la Chiesa, per tutti i sacerdoti, in modo particolare però per le persone sofferenti nel corpo e nello spirito, dandovi appuntamento per il prossimo primo sabato del mese, augurando a tutti una santa notte. Vi saluto assicurando il mio ricordo nella preghiera da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.